Zolt. Fulminati in azienda. Ah Marco, non puoi capire che razza investimenti si è messa in testa e fa a fonte per il call center. Ma guarda che sono stato io stesso a darle il mandato di dare una rinnovata. Dai, c'entri, bene. Ma dai, c'è la ripresina. Anche i subalterni del girone del call center hanno diritto a sentirne i benefici. Ma io non dico di no, figuriamoci. E poi è provato che un ambiente di lavoro più accogliente e piacevole aumenta la soddisfazione delle risorse e di conseguenza i risultati. Lo vedi? Niente si dà per niente. Io investo nell'ambiente e loro mi restituiscono il cash. Sarà, ma prima delle piasse a tutte le spese ci stiamo incollando sopra, dovremmo aspettare anni. Ma cosa sarà mai? Dai, c'entri! Abbiamo concordato qualche poltroncina nuova, una saletta ristoro con la macchinetta del caffè e qualche poster alle pareti. Dai, mica ci rovineremo per questo. Dovresti essere più generoso con i tuoi sottoposti. Sì, e poi quelle prolunghe alle cuffie che consentivano di andare alla toilette senza interrompere le telefonate erano davvero a rischio di denuncia. Il mio amico psicologo mi ha spiegato che simbolicamente rappresentano delle catene. Ecco, adesso non esageriamo, perché ricercare l'efficienza non è mica un crimine. Tra l'altro, efficiency is not a crime. Vedi, e questa zona prugna del progetto è la zona relax. 7 poltrone trao in pelle rosa cipria su una moquette di pelo di coniglio La Pen. Sulle pareti altrettanti affreschi pesca e di sottofondo un sistema polifonico sensoriale che emana musica new age. Scusa Marta, sai che noi della consulenza nelle occasioni in cui è possibile esprimere glamour siamo sempre al fianco dei clienti più creativi. Certo che lo so PG, che noia tutti quei progetti grigi pieni di numerini ed equazioni. Una bruttura per la vista e per l'animo. Ecco, non credi? Quello che vorrei dirti è che Mi sembra che tu stia un tantino esagerando. Ah, credi? Forse è meglio fare divani di un colore meno trend, che magari non mi vadano fuori moda troppo in fretta. La verità è che quello creativo è sempre solo un aspetto. Dovremmo essere meno coinvolti e deciderci a guardare qualche preventivo di spesa. Preventivi? Oh, che parola cacofonica. Ma lo sai che quando sei nel pieno di una tempesta hormonal creativa vedere i costi è come, non so, vedere il buco nel calzino prima di un incontro amoroso. Sono un attentato al desiderio. NCS, non ci siamo. E questi sarebbero i conti per una rinfrescatina al call center. Te avevo detto, non mai creduto. E quando le donne giocano a fare redattrici sono pericolose. Ma Marco, creare un ambiente di lavoro decoroso è il minimo. Minimo, decoroso, ma Fon, ti rendi conto di quanto mi è costato? Scusa, ma anche tu concordavi che è provato che un ambiente di lavoro più accogliente e piacevole aumenta la soddisfazione. Tu taci della tua soddisfazione. Lo volete capire o no che le persone devono lavorare soddisfatte sia che piova, sia che ci sia il sole, sia che abbiamo uno straccio di poltroncino che debbano lavorare in piedi e rispondere al telefono per 7 ore. Però su una poltroncina anatomica le guadagna anche la postura della voce. La fonte rientra sul nostro pianeta, qua dobbiamo trovare una soluzione. Parquet di banano libanese aromatizzato, tende frangisole non conflittuali con il riverbero degli schermi. Uè, stiamo scherzando? Ma adesso il call center è più lussuoso della sala del consiglio di amministrazione. Attenti che moscata idea. E infatti l'idea c'è, eccola qui, brava Font. Grazie a te abbiamo finalmente la nuova sede del consiglio di amministrazione. Scusa, è il call center? È il call center, lo spostiamo nel garage. Tanto vengono tutti con lo scooter. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z 2o 1t.